attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Vorrei dedicare The Only One al mio sistema nervoso, Lorenzo. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. Sono il Gulla da Torino. Il 5 novembre è il mio compleanno. Regalami una canzone. Saluto Salvo, Paolino e Alex, i miei compagni di Tamaria d'Agostiniana. Jeff dal Brasile. Mi piacerebbe dedicare Silence alla mia ragazza Sueli. ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Di vita. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao da Tonino di Como. Dedico again a Chiara, la mia bimba. Che hai bimbi. Per dirle che il weekend passato insieme, dopo 2 anni di lontananza, è stato indimenticabile. Grazie, Chia. Ti voglio bene. Ricky, da Varese. You let me down so many times. Useless relation, it's no good for both of us. I guess if you keep loving me, or do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. Your behavior has to stop. I don't want to see you again. Se volete scrivermi, 334 67 662. Ciao dottor Doug. Hola puta. Volevo salutare la mia migliore amica Serena e dirle che le voglio un bene dell'anima. Domi da Chieri. Sono Prociotta. Volevo ringraziare la mia amica Claudia di Lariano per la sua dedica di qualche giorno fa e dedicare a lei Picchia. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Il cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarre. Gigi Dag, vai, vai, vai, e non fermarti mai. Vai, vai, vai, e non fermarti mai. Vai, vai, vai, e non fermarti mai. Vai, vai, vai, vai. Mamma cazzua! Giacomo, Giacomo da Sassari. Il 6 novembre 1948 nasce Glenn Frey, cantante dei The Eagles. capito come. Back, bins, spin back, bins, back, bins, spin go, spin bins, back, bins, spin back, bins, back, bins, spin go, spin bins, back, bins. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ho tanta voglia di amare qualcuno, se solo trovassi la persona giusta. Manuela da Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io, in discoteca, e cioè dove suono. Sabato 11 novembre al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Vorrei dedicare Stand By Me a mia moglie Vanessa e ai miei figli Giulia e Alessandro e dire loro che a volte i ritmi della vita sono troppo frenetici, ma non me la saprei mai immaginare una vita senza di loro. Vi adoro. Marco da Perugia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Casa e sto studiando e non ce la faccio più. Penso al ragazzo che amo e che non avrò mai e sono triste. Per piacere, Gigi, suonami una canzone triste e d'amore. Sì. La dedico ad Alessio. Ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Yeah. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Sono Stefano da Como. Volevo dire a Luana che la amo da impazzire. Sono Ambra dalla Sicilia. Vorrei dedicare l'amour toujours all'amore della mia vita, Giorgio. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. La fa chi balla, chi non si muove è una palla. Il cammino di Gigi D'Agostino. Mexican, yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Spanish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, so the Syrian, the Indian and Jamaican. Take a look on the television, no gunshot and blood, there's enough program, level vibe, but you know they can't wrong. Think about the way that we live today. Think about the way

A Cosenza ci devi far sognare. Leon. Se volete scrivermi, 333-64-67-662. Il cammino di Gigi D'Agostino. Saluta tanto tanto tanto tanto tanto tanto.